si è conclusa adesso l'udienza del tribunale, che si era capito fin dall'inizio abbastanza mal disposta, se non altro per una particolare composizione del collegio, con un giudice all'adere notoriamente di destra e con una indisponibilità, insomma, che si era notata fin dalle prime battute degli avvocati difensori, che avevano chiesto la non ammissione del comune come parte civile, che viceversa è stata accettata sia pure limitatamente ad alcuni danni arrecati agli arredi urbani. Mm-hmm. Quindi questo non depone bene, in quanto il comune ha titolo a, diciamo, presenziare nel processo e a dire la sua nei confronti come parte danneggiata, diciamo. Allora, poi, per chi ci ascolta, chiaramente stiamo parlando dei processi in seguito agli arresti di oltre 20 persone dopo la manifestazione della giornata del 14 dicembre qui a Roma. Sì, in particolare, allora precisiamo così per gli ascoltatori, che si tratta di 6 persone. Sì. Tra cui un francese e 2 residenti a Genova, sì. 3 residenti a Genova e poi gli altri i compagni di Roma, insomma, tra cui Mario Migliucci, e l'unico agli arresti domiciliari, no, che aveva avuto questo provvedimento. Sì. Mentre invece per i 3 genovesi c'era l'obbligo di residenza, l'obbligo di non ritornare nel comune di Roma. Insomma, dopo un'analisi delle prove da parte della difesa, nel senso che la difesa ha chiesto dei termini a difesa più ampi perché le prove documentarie sono numerose, filmati, fotografie, eccetera eccetera, poi c'è stata un'argomentazione dal punto di vista delle riduzioni delle misure cautelari, anche questa argomentata da parte di tutto il collegio dei difensori. Adesso erano andati in Camera di Consiglio, i giudici sono ritornati e il risultato è questo finale, che non viene, anche perché il PM si era opposto alla riduzione delle misure cautelari, non viene ridotta nessuna misura cautelare per nessuno, quindi per i genovesi rimane l'obbligo di non tornare nel comune di Roma. Per il Migliucci, Mario Migliucci, vengono confermati gli arresti domiciliari con il divieto di contatto telefonico e internet di persona con altre persone, con l'esclusione, questa è stata l'unica concessione, con l'esclusione del giorni 24, 25 e 26 in considerazione delle feste natalizie. La prossima udienza è fissata per il 24 gennaio 2011, questo è il risultato non buono, diciamo, di questa giornata qui a Piazzale Clodio. Insomma, fuori l'aula era piena di compagni e compagne che erano venuti, e anche fuori del tribunale. In presidio da stamattina, poi? Presidio da stamattina, insomma, c'erano mediamente un centinaio di persone. Sì. Che si alternavano, poi chi entrava e chi riusciva tra l'aula e Piazzale Clodio, e questo è il risultato finale. Ecco. Quindi rinvio della prossima udienza al 24 gennaio, ammissione limitatamente ad alcuni danni parziali del Comune di Roma come parte civile e respingimento della riduzione delle misure cautelari, che quindi rimangono in particolare per Mario Migliucci agli arresti domiciliari e per i 3 genovesi con il divieto di ritornare nel Comune di Roma. Quindi questo è quanto. Quindi resta questa prossima tappa del 24 gennaio, quindi tra un mese. Quindi sostanzialmente tra un mese, sì, praticamente sì. Un mese.